largo il cadagatto, scendo lo Skagerrak. Quando al porto io giungo ancor, io trovo ignor l'antico amor che mi aspetta con dolce allegria. Splendida, splendida Copenaghen, bianca sirena del nord, niuna come te sa legarmi a sé con incanti senza uguali. Splendida, splendida Copenaghen, dolce regina del mar, sempre a te tornai pur se ti lasciai. E ora Copenaghen, splendida, splendida Copenaghen, son qui. Splendida, splendida Copenaghen, bianca sirena del nord, luna come te, sole incarni a sé, con incanti senza uguali. Splendida, splendida Copenaghen, dolce regina del mare, sempre a te tornai, pur se ti lasciai. E ora Copenaghen.